C'è il buco nella sedia. Buongiorno. Buongiorno. And good morning. Buenos días. Tashi Delek. So, you don't need to translate. So, I was really, really happy and honored to be here in the Lama Tsongkhapa Institute after so many years, my visit, and I was really satisfied and I was overjoyed to be here. Sono molto contento di essere qui all'Istituto Lama Tsongkhapa dopo molti anni e sono molto soddisfatto di essere qui. And especially today, the Flame of Truth is here in this very important institute, Lama Tsongkhapa. And we decided at the last moment, because we know that Lama Tsongkhapa is doing very well, for the Tibetan cause, our culture, and our philosophy of Tibetan Buddhism, Tibetan culture. Therefore, at the last moment, we decided to be here today with you. Proprio adesso, siamo arrivati con la fiamma della verità all'istituto. Sappiamo che l'istituto partecipa molto attivamente alla causa tibetana e alla difesa della nostra cultura. E siamo molto contenti perciò di essere qui. Okay, so you know that these days even the situation inside Tibet is very dramatic, very critical, and really a lot of suffering inside Tibet. La situazione in Tibet è molto critica, è veramente drammatica, c'è molta sofferenza. And yes, and especially, yeah, you know that until today, there's 64 our brother and sister inside Tibet. They offered their life to preserve our country, our culture, our identity, and our religion, and our tradition inside Tibet. Ci sono 64 nostri fratelli e sorelle che rischiano la loro vita per hanno sacrificato la loro vita per il Tibet, per la causa tibetana. Yeah, and inside Tibet, really the suffering we cannot imagine, and under the repression of Chinese government. Nel Tibet c'è una repressione incredibile da parte del governo cinese. You know that also inside Tibet there's no religious freedom, there's no religious freedom of education also. There's no freedom of movement in Tibet, and also there's no human right in Tibet as well as in China. Allora, sappiamo che nel Tibet non c'è libertà di religione, non c'è libertà di istruzione, di avere la propria cultura, non ci sono diritti umani, e così anche in Cina. Yeah, then Tibet is burning these days. Yes, Tibet is dying these days, but whole world, the United Nations and the European community and the international community, they are silent. Il Tibet sta bruciando, sta morendo, ma il mondo intero, l'Europa, è completamente in silenzio, completamente indifferente. Yes, because the Chinese government's number one in economic and power, so therefore every country really they want to have a good relation with China and keep silence for the Tibet, the violation of human rights and the freedoms of our people. Questo perché la Cina è una grandissima potenza economica e ogni paese ha paura di lei e vuole avere buone relazioni e quindi a questo è dovuto il silenzio degli altri paesi. So this flame of truth We are worldwide traveling, and the meaning and the purpose is to let the people of the world know the situation of Tibet, and to bring more support to the Tibetan cause. Questa fiamma della verità, quindi, è praticamente il mezzo con cui vorremmo far sapere al paese, agli altri paesi e al mondo della causa tibetana e della sofferenza del Tibet. Yeah, and this flame of truth, this is European flame of truth, which now, since last year, I was elected as a member of parliament in exile from Europe. So, this is my special responsibility to speak out and to travel here and there and to let people know and share the real problem of Tibetans rest of the world. L'anno scorso sono stato eletto delegato per l'Europa e il mio scopo quindi è girare in Europa con questa fiamma della verità e far sapere all'Europa della causa tibetana e della sofferenza del popolo tibetano. Yeah, actually I'm a Buddhist monk. I prefer to stay in a monastery like Nalanda or here and meditating and studying, but I can see that my own brother and sister inside Tibet, they are dying. They are really in danger of their life. So, my also practice is not in a monastery in the West, but my practice is also traveling here, there, speaking out and let people know the real suffering and the repression inside Tibet by the Chinese government. Io sono monaco buddista e ovviamente preferirei stare in monastero, però voglio sostenere le mie sorelle e fratelli che stanno soffrendo nel Tibet e sostenere la loro causa e farlo sapere. And I really appreciate Lama Tsong Kapa and many centers of FMT. Of course, not only meditation and spiritual, but also you are very much involved all time. I know that you are involved in Tibetan solidarity actions and as well as Tibetan culture. So therefore, it's very very important, and I really appreciate what you are doing. Apprezzo molto l'istituto, l'Amazon K e gli altri centri FPNT che non sono solo centri di meditazione e di pratica, ma che partecipano attivamente alla causa tibetana e alla difesa dei diritti umani. I have been traveling many many countries, and this flame of truth is a 22nd country where I visited this European tour. 22nd country is Italy. Sono stato anche in altre nazioni e questa è la seconda nazione dove sono, 22esima nazione dove sto passando con la fiamma della verità. And the 23rd country will be the Switzerland. And after tomorrow I will go to Switzerland and we will end our two months traveling in Europe, 23 countries, and we will 4th November we will end this flame of truth in front of United Nations in Geneva. Il 23esimo stato sarà la Svizzera, quindi il 4 di novembre si concluderà il tour della fiamma della verità dopo questi due mesi e si concluderà a Ginevra in Svizzera. Within these 22 countries I visited, some Buddhist centers are very open, and mostly even they don't want to come, they say, We are trying to say that, okay, flame of truth is coming. Can we visit your center? And the many center, they say, please don't come. You are politic and we are only religious. So don't come. We don't want politics in our center. In questi due paesi è successo che non tutti i centri buddisti hanno accolto la fiamma della verità. Alcuni mi hanno chiesto di non entrare nel centro perché questa è una cosa politica e quindi non era gradita. Yeah, then this is then what we say, what we can do. And the only thing is listen, okay, sorry, yes, thank you. because we are in a free country and everyone is really has to feel and express freely what they are thinking. Allora noi cosa possiamo rispondere? Possiamo dire solo Va bene, questo è un paese libero e quindi siete liberi di esprimervi in questo modo, c'è un libero pensiero. But it's very disappointed, you know. Disappointed, why? The Tibetan Buddhist Center, they use Tibetan and then they don't do anything for Tibet. This is really sad, you know. But we cannot do anything, you know. Questo è molto deludente perché nei centri tibetani, in pratica, si usano i tibetani, ci si rifà la cultura tibetana e quindi è molto, molto deludente che si risponda a questo modo. Yeah, then so far I know that the Lama Tsongkhapa Institute, you are always engaging into the Tibetan action, Tibetan events. So I really appreciate the Geshe-las, the great teachers, and then also directors and all. Here I can see many, many old faces of our friend, you know, and really the Sangha. Okay, that's very, very important. And I was not only that because I say thank you because you do something for Tibet, but also it's very important for you know, that really to increase your inner knowledge, inner wisdom. You know, this is very important. At the same time, the Tibet is suffering. Tibetan people are dying. So don't be selfish. You know. Those Buddhist centers, which they don't want to do something for Tibet, I'm telling them that you are very selfish, you know, egoistic, only thinking for oneself, not thinking for Tibetan people who are dying. È molto importante scusate. Allora, io vedo qui che so che l'istituto è sempre stato molto impegnato nella causa tibetana e tutti quanti, Geshe La, il direttore, vedo molti vecchi praticanti qui intorno, il Sangha, è molto importante per noi e per voi e per ciascuno di ricordare il Tibet. Il Tibet sta morendo, i centri non possono esimersi dall'interessarsi della causa tibetana e della sofferenza del Tibet. And I'm not going to talk long because you people are really, you know the information of Tibet, what is happening. And His Holiness Dalai Lama, his wish is not only for Tibetans, but his wish is really for authentic and genuine, of course, the peace in the world, you know. This is and religious harmony between all kind of tradition in the world. That's really great. So we Tibetans, at the moment, we have no country, but we are so lucky that we have Dalai Lama, you know. Italian have only Berlusconi. American have only Obama. This is true. But we Tibetans, we are very proud that we have Dalai Lama, even though we have no our country. Non parlerò a lungo. Voi sapete che Sua Santità il Dalai Lama lavora costantemente per la pace e anche per l'armonia religiosa, l'armonia tra le religioni. Noi tibetani non abbiamo un paese, però abbiamo Sua Santità, mentre voi avete Berlusconi e gli altri paesi. E l'America Obama. Okay, so then what we say, okay, our struggle, you know that the Tibetan struggle will be always based on peace and non-violence. This is we never, officially, we never, you know, our struggle is only through non-violence and peaceful way, okay? La lotta tibetana sarebbe sempre al fine di avere uno stato pacifico, di avere una condizione pacifica. Yeah, so don't worry. We Tibetan never really, you know, kill Chinese, okay? So inside Tibet, even instead of killing Chinese, they themselves burning, you know. This is really, from one side, it's pity that why we are asking them to stop the self-immolation. We are asking, you know, officially. And I myself asked many times in through radio interviews, I asked them, please, we have to live precious human life. We have to live and we can do so many things in the future. Please don't die. Please don't self-immolate. We are asking. But inside the Tibet, the suffering is immense. And they only show up to the world you know, will speak out in Tibet. This is what they wish, and they are doing continuously. Hopefully, they are 20, now 64, but it will be the last. We hope. Noi non preoccupatevi, noi non uccideremo mai i cinesi, non faremo mai niente di male. Chiediamo anche ai tibetani di finire, di non continuare con i sacrifici, con le immolazioni. Queste 64 persone sono morte, però la sofferenza è enorme e non sappiamo... non mi sono persa. Esatto. E chiediamo di non farlo più. Che non lo facciano più. Crediamo che non lo facciano più, però è l'unica cosa che possono fare per avere il mondo che diventa più cosciente di questa sofferenza. Very good. Ok, molto bene, yeah. And then now is really, I want to ask all you people, please, you know, study well, yes, practice well, and be good person, good heart, as always Dalai Lama says. Buddha also said that, you know, control our mind. And then try to be happy. And as whenever is possible, we need to really, you know, concern about the suffering of others. Otherwise, every morning we are praying, you know, that for benefit for all mother sentient beings who are suffering. But some Buddhist people, they only think themselves and they don't think the people's sufferings. Vorrei chiedervi, studiate bene, praticate bene, controllate la vostra mente e cercate di essere felici. Quando è possibile, dobbiamo cercare di essere coscienti della sofferenza degli altri, di tutti gli esseri nostri madri. Non possiamo essere egoisti. Allora, yeah, so I really then inside Tibet, this old Tibetan who are self-immolating, at the end when they are dying, their words are saying that the free Tibet, freedom in Tibet. And the long life Dalai Lama, I return Dalai Lama back to Tibet as soon as possible. These are the wish of 6 million Tibetans inside Tibet. If it's too late, then now there are nearly 8 million Chinese in Tibet. And we are already minority in our own country, Tibet, you know. So Tibet remains small, then, you know, it's danger for many things. Yeah, language and identity, and also the nature, ecologically, that the Chinese government is destroying all our nature inside Tibet. And then, you know, what will happen in the future, you know, also Buddhist philosophy, there won't be really, you know, so there will be danger for the Buddhist practice purely if Tibet is not free. Nel Tibet, ora, ci sono le persone si immolano, gridando libertà in Tibet e lunga vita al Dalai Lama. Vi sono ora 6 milioni di tibetani, mentre i cinesi sono 8 milioni, quindi è a rischio per questa disparità di numero anche il linguaggio, l'identità religiosa, la cultura e inoltre si sta distruggendo dal punto di vista ecologico l'ambiente, la natura in Tibet e anche la filosofia buddista sarà a rischio continuando la situazione perdurando in questo modo. Yes, then now this kind of flame of truth is traveling worldwide, means like in Canada there's one, in America, North America there's one, Africa there's one, and Australia and New Zealand there's one, and then Taiwan there's one flame, and in Russia there's other flame, and in India there are three in India, and so in Europe only this one. So Europe is most difficult because so many countries, so small country. So really 2 months I travel and no problem, you know, and because once you have a stent and the determination, everything goes easy, you know. And then for this reason, I'm so happy. La fiamma sta, ci sono varie di queste fiamme della verità, stanno girando negli USA, in Africa, in Australia, Nuova Zelanda, in Taiwan, in Russia, in India ce ne sono addirittura tre, mentre in Europa ce n'è una sola e devo visitare tanti paesi, ma non c'è nessun problema perché da parte mia c'è una forte determinazione in questa cosa. Yeah, especially in Europe, yes, very good response from public, from MPs, from politicians. Yeah, and I met many, many MPs, member of parliaments, and many mayors of the cities, and some politician importance. So this, I mean, really. But this time, the Tibet support groups, yeah, they didn't participate a lot. I was a little bit disappointed. Tibet support groups. They didn't, in all country, especially in, okay, in Italy is one of the best. They supported, Tibet Italia Association is very effective and very good. I was really appreciate. But the rest of the country, the Tibet support groups, they didn't support at all this time. In Europa c'è stata molta partecipazione da parte della politica, sia locale che governativa. Ho incontrato molti sindaci e rappresentanti politici, mentre da parte dei gruppi di supporto tibetani non c'è stata altrettanta partecipazione. Però devo dire che in Italia invece l'Associazione Italia dei Tibetani, Italiana dei Tibetani ha risposto molto bene, ha partecipato. Okay, so then I was very proud on the other side that the Tibetan communities in all over Europe, even though a very small association, Tibetans this time really, they organized very well, and I was really proud of the Tibetan communities in all over the Europe. They could really organize well, meeting and peace march and press conference, etc. The Tibetan communities in Europe, they did a very well job this time. In generale, comunque, sono orgoglioso delle comunità tibetane in Europa perché hanno organizzato molto bene marce della pace, conferenze, varie attività e sono stati molto attivi in merito alla questione tibetana. And especially like yesterday in Rome, the Italy, Bologna, I went, and Italy, Rome, yes, very good event. And then today we are in Pumaya, thanks for Geshe-la and directors, we met together. It's not a session of meditation, but it's a session of a little bit solidarity, not politics. I'm not calling this politics, this solidarity to the Tibetan brothers, okay? And then, okay. E ieri sono andato a Roma, poi siamo andati a Bologna e c'è stata molta partecipazione e anche qui a Pomaia, grazie a Geshe La, al direttore, e non posso dire che questa è una cosa completamente politica, ma è soprattutto qualcosa che rappresenta una solidarietà verso la causa tibetana. So now, just now, yeah, they are giving me sign to stop because we have to go Milano. And Milan also, they are going to receive many, many politicians now. And then, yes, it's good, really sign. And I want to say thanks to all the Italian public and officials. Ora devo smettere perché dobbiamo partire per Milano, dove devo essere ricevuto da alcuni politici e sono molto lieto di essere venuto qui. Then at the end, I want to say that thanks up for my friend, yes, Javier from Spain. He, without him, I won't be traveling many, many Voglio ringraziare Xavier in spagnolo perché senza di lui non avrei potuto fare questa impresa, non avrei potuto compiere questa places. Not impresa. only he drive for me. This car, very small, beautiful monk's car, monk's color, is his car, not my car, And then he offered his car, driving, and also not only driving, his assistant to me, taking pictures and download and update every day while I'm traveling. And really, he even, that in Spain, crisis, a lot of crisis, and but he even he stopped his job, saying that. In order to work for Tibet, even I lost my job, I don't mind. I won't get I know, again, this kind of opportunity. So, he really strong determination. He stopped his job and he come with me. So, therefore, I want to, you know, some people even, you know, they cannot even get permission 1 day or 2 hours from the job because they're afraid. But he really, you know, he's brave, you know. He stopped his job, he accompanied with me. So, it really, I want to say thanks for him, yeah. Voglio ringraziarlo perché lui non solo guida la macchina, che tra l'altro è sua, ma mi aiuta moltissimo prendendo le foto, scaricandole su internet, aggiornando i dati e nonostante la crisi sia molto forte anche in Spagna, lui ha lasciato il suo lavoro per lavorare per il Tibet e lo ringrazio per questa sua grande dedizione e determinazione. Ok, so thanks for everything and please continues your support for Tibet, okay? Until now, and because this is, if you do really something for Tibet, and now, you know, if Tibet, okay, has a less problem, even the Dharma will be less problem, and we can really study and practice better and well in our everyday life. If Tibet has a problem, then really, we cannot focus too much. The teachers, who are the teachers? They are Tibetans, you know. So all the teachers, Tibetan teachers, they also want a free country, free Tibet, and they want a human right in our own country, you know. So I think for this reason, you can repay your kindness to your teacher doing something for Tibet. Not politically, I said, solidarity, okay, and help support Tibet morally is very important. Molto. Politically as well. Politically is not a bad word. Yeah, Italy maybe people can understand well, but in the other countries, if we say politics, then they don't like. So I said solidarity. This is really good. You know? Grazie per il sostegno per il Tibet. Se il Tibet avrà meno problemi, potremmo studiare meglio. I nostri maestri sono tibetani e desiderano intensamente che il Tibet possa avere come tutte le nazioni, godere dei diritti umani. E quindi vi chiedo, non solo siate, cioè non voglio che questa sia una cosa politica, ma praticate la solidarietà verso il Tibet e verso la causa tibetana. Grazie. Yeah, so yeah, at the end, yeah, wish you all the best and pray for His Holiness Dalai Lama long life and really long life Lama Sopa Rinpoche. And all the teachers, you know, especially world peace and freedom for Tibet. This is last words. Vi auguro il meglio e auguro una lunga vita a Sua Santità il Dalai Lama e a tutti i maestri. Grazie. A nome dell'Istituto Lama Tsongkhapa. But it's not necessary. Can take more. Volevo ringraziare Wangchen per essere qui, per aver portato tra di noi la fiamma della verità. Siamo noi onorati dalla presenza della fiamma della verità all'interno dell'istituto. E l'unica cosa ci spiace di aver organizzato la cosa molto velocemente, ma speriamo di aver dato degna accoglienza a voi. L'istituto e molti centri FPMT sono da anni a sostegno della causa tibetana, però sembra che in questo momento sia necessario alzare un po' la nostra voce, sostenere ancora di più, fare uno sforzo maggiore. Questo perché attorno alla causa tibetana è calato un silenzio assordante, se ne parla molto poco e io devo anche condividere con voi quello di cui sono stato testimone diretto a Roma negli ultimi giorni, quando siamo andati a fare una conferenza stampa all'interno del Parlamento di Montecitorio, dove era presente il primo ministro tibetano, Lhasa Sangye. E una conferenza stampa indetta all'interno del Parlamento italiano, annunciata, programmata, e che ha visto l'assenza di qualsiasi giornalista. nessun giornalista era presente. E questo dobbiamo dirlo molto forte. La vergogna della nostra, dei nostri organi di stampa, la vergogna della nostra comunicazione. E riporto quello che mi è piaciuto molto sentir dire da un parlamentare, che da un deputato che era presente, il quale diceva: se oggi avessimo avuto qui presente una consigliera regionale della Lombardia che avesse parlato della propria vita privata, avremmo avuto qua 200 giornalisti. Siccome stiamo parlando della causa tibetana, siccome stiamo parlando di 60 persone che si sono date fuoco negli ultimi mesi per la causa tibetana, non c'è nessuno. E questo bisogna dirlo molto chiaramente, è una vergogna. Ed è per questo che dobbiamo alzare la nostra voce, dobbiamo far sentire ancora di più il nostro supporto, partecipare a tutte le manifestazioni che possono ricordare, sostenere la causa tibetana. In funzione di questo abbiamo anche invitato all'istituto qualche settimana fa a Jetsun Pema, la sorella di Sua Santità, per parlare della causa tibetana. Abbiamo invitato Losang Sangye, primo ministro tibetano, evidentemente abbiamo invitato Sua Santità all'istituto. E continueremo sempre di più, e invito tutti noi, c'è un lavoro istituzionale ma c'è un lavoro anche individuale di tutti noi, e credo che sostenere la causa tibetana sia un impegno, un obbligo. E vorrei dire anche una cosa un po' provocatoria forse, io so che in molti centri sostenere la causa tibetana è sentita come un qualcosa di difficile. Io penso che dobbiamo sostenere la causa tibetana proprio perché è una questione politica. Proprio perché è una questione politica dobbiamo sostenere la causa tibetana, laddove diamo della politica un'accezione nobile, che è quella di gestire gli interessi della collettività, difendere le minoranze, promuovere i diritti soprattutto legati alla libertà individuale. E in questo senso, in questa accezione di politica, che noi sosteniamo la causa tibetana. Se invece diamo alla politica l'accezione classica di difesa di interessi personali, di egoismi, come diceva Wangchen prima, allora chiaramente ci può avere qualche imbarazzo nel sostenere la causa tibetana. E sosteniamo la causa tibetana anche per altre due ragioni. La prima è il debito di riconoscenza che noi abbiamo verso questa cultura. Incredibile riconoscenza che non riusciremo probabilmente mai a ripagare. E quindi questo ci obbliga, ci impegna a ricordare le difficoltà, le sofferenze di questo popolo da cui arriva questo infinito, immenso tesoro di saggezza che i nostri maestri condividono con noi. E poi perché ritengo che sostenere la causa tibetana sia proprio una pratica di Dharma in questo momento, perché significa proprio sentire dentro di noi la compassione, la vicinanza rispetto a chi sta soffrendo delle pene inenarrabili. Per cui volevo semplicemente dire questo: saremo sempre disponibili, la nostra porta sarà sempre aperta per qualsiasi iniziativa che possa ricordare e sostenere la causa tibetana. Grazie veramente della vostra presenza, ringrazio anche Nima, presidente della comunità tibetana, saremo sempre al vostro fianco, grazie. So there's some signing. We have petition signed. So please, if you don't have a sign, then okay. I speak loud, no problem. And please do sign. This is important because 10th December we will offer this petition sign to the United Nations in Geneva. Okay, signature campaign we have here. So we will leave some pages here and you can, you know, collect sign and then you can send it this to Tibetan community or direct to Tibetan Parliament Dharamsala or Swiss Tibet office. You can send that. Allora lasceremo dei fogli e per cortesia se volete firmate per la causa tibetana e potete e dare poi queste firme alla comunità tibetana qui oppure mandarle a Dharamsala, all'ufficio tibetano oppure a Ginevra, all'ufficio del Tibet. Okay, then I want to speak 1 hour more, but the Tibetan community president is very much worried that we are going to late in Milano, you know. So then anyway, hopefully we see again. and really the very good word of the director, Philip, and really do continues, and you know, and whenever it's possible, I will convey your message, what you are doing, your center, your institute. I will convey message to all Tibetan above, who are above me. I'm just new, you know. Yeah, okay, thank you very much. Yeah. Allora vi ringrazio molto, mi guardano perché dobbiamo andare a Milano, c'è urgenza. Ringrazio moltissimo Filippo, il direttore, e tutti quanti, e vi ringrazio da parte mia e da tutti i tibetani che sono sopra di me. Grazie. Okay. Thank you.